noi è un appuntamento importante, l'inizio di 3 anni di monofornitura di tutte le vetture a 4 ruote motrici che partecipano al Mondiale Rally, per cui una sfida sicuramente impegnativa e importante. Riusciamo a spiegare anche agli appassionati, ma magari non conoscitori tecnici, perché la FIA ha voluto una fornitura unica e ha fatto una gara che vi siete aggiudicati? È un po' l'indirizzo che stanno prendendo molte competizioni motoristiche, a partire dalla Formula 1, dalla Superbike, dal Mondiale Turismo. È un sistema per cercare di ridurre i costi e di livellare le prestazioni. Gli pneumatici sono diventati sempre di più componente fondamentale nella prestazione dell'insieme vettura pilota e di conseguenza il fatto di utilizzare una monogomma sicuramente livella un po' le prestazioni. Monogomma naturalmente non significa che esista una sola gomma per tutti, perché se tutti montano la stessa gomma, però tipi di gomme ce ne sono diverse, 4 o di più? In realtà sono 4, anche se la gomma asfalto e la gomma terra sarà presentata in 2 versioni, con mescola morbida e con mescola dura. La grossa novità riguarda soprattutto la gomma asfalto, che per la prima volta presenta lo stesso battistrada in caso di strada bagnata o di strada asciutta, mentre nel passato sappiamo bene che sono sempre state usate gomme con tagli diversi per fronteggiare condizioni di bagnato.